in primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, sono le 7:34 minuti, vediamo insieme i quotidiani di oggi con qualche approfondimento, soprattutto le prime pagine, a partire dal Sole 24 Ore, apertura dedicata all'Europa salvagente per le banche, questo è il titolo, i nodi del credito, l'EBA apre alla proroga sui prestiti in moratoria, dossier al board di dicembre. L'obiettivo, scrive il Sole, è evitare che diventino deteriorati i crediti oggetto di rinegoziazione. Tema che poi viene declinato nelle pagine interne. Restiamo sulla prima, investimento da 44 milioni dopo quello di Genova, un acquario anche a Trieste. E leggiamo, Trieste punta sul know-how di Genova per la gestione del nuovo Parco del Mare. Il progetto ha il suo fulcro nella realizzazione di un acquario gestito da Costa Edutainment, che ha creato anche quello di Genova e che, nonostante le chiusure imposte dal Covid a parchi e musei, continua a guardare al futuro in chiave di sviluppo. Ne scrive poi Raul De Forcade nelle pagine interne. Voglio segnalare dal Sole, dalla prima del Sole, però altri due temi. L'idrogeno, che vedremo tra pochissimo, e l'approfondimento food, cantine, il rilancio passa per wine club e strategie online. Dicevo del tema dell'idrogeno, viene dettagliato a pagina 10 in un articolo di Carmine Fotina. Idrogeno, parte il piano italiano, in corsa le prime 30 aziende. Ci sono già le manifestazioni di interesse di un'avanguardia di imprese, più di 30, per entrare nella squadra italiana del progetto europeo di interesse comune sull'idrogeno, IPCEI. Questo è il nome del progetto in acronimo. E c'è l'intenzione del governo di aggregarsi a Germania e Francia, firmando il manifesto promosso da questi due paesi perché l'IPCEI parta nel 2022. Su questa nuova frontiera tecnologica l'Italia inizia dunque a uscire dagli annunci di principio. Sono state stilate le linee guida della strategia nazionale. 10 giorni fa si è svolto l'incontro tra un centinaio di operatori interessati e nelle proposte del Ministero dello Sviluppo, il MISE, per il Recovery Plan italiano ci sono 1,5 miliardi destinati in modo specifico all'idrogeno, più altri 1,5 da ripartire con gli altri PCI dedicati a batterie e microelettronica. L'energia prodotta dall'idrogeno, secondo i piani, dovrà alimentare in futuro quote significative del consumo dei trasporti pesanti di una parte dell'industria manifatturiera, ma potrebbe anche avere applicazioni nel riscaldamento domestico e commerciale. Per mettere a punto la strategia, il MISE ha chiamato attorno allo stesso tavolo Snam, ma anche Eni ed Enel, che hanno un ruolo chiave nella transizione energetica. E così l'incipit dell'articolo di Carmine Fotina, che vi dicevo su Sole 24 Ore oggi a pagina 10. C'è un altro tema su cui si ferma oggi il Sole, pagina 2, l'Italia paga 6,4 miliardi ai paradisi fiscali. Parliamo di workshop Ambrosetti, ne scrive Davide Colombo. 9 paradisi fiscali attraggono ogni anno il 42% degli investimenti diretti esteri globali e oltre il 40% dei profitti realizzati dalle multinazionali, con un profit shifting di circa 741 miliardi l'anno, sottratti alle altre economie. Per l'Italia questo dumping fiscale si traduce in una perdita di gettito attorno ai 6,4 miliardi annui su 27 miliardi di profitti registrati in dollari statunitensi. La Germania perde il 26% del gettito della tassazione sugli utili d'impresa, la Francia il 22%, l'Italia il 15%. È il dato politicamente più clamoroso rilanciato dalla 31esima edizione del workshop Finanza 2020 organizzato da The European House Ambrosetti. Fare i frugali con i soldi degli altri diventa insopportabile in una condizione di emergenza, ha affermato Valerio De Molli, CEO del think tank privato. Una denuncia raccolta in primis dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini, che ha assicurato un impegno del quotidiano per sostenere una battaglia affinché l'Europa metta fine a questa situazione da furbetti del quartierino, che non può più andare avanti così. E questo è l'impegno che prende il direttore oggi sulle pagine del Sole 24 Ore. Andiamo a Libero, oggi ho scelto un po' un ordine di sovvertire un po' l'ordine solito con il quale leggiamo i giornali. Andiamo a Libero, titolo di apertura: prendono a calci le ambulanze, molti italiani perdono il controllo. A Milano, Napoli e Torino inquietanti assalti ai mezzi di soccorso. I fatti sono da condannare, ma la tensione, sostiene Libero, è figlia dei ritardi dello Stato e della confusione generata da politici e scienziati. Ne scrive Lorenzo Mottola, vi leggo qualche passaggio. Scusate, il fruscio, si erano appiccicate le pagine. Allora, dicevo, ne scrive Lorenzo Mottola. Gli increduli sono sempre più agguerriti e sono ovviamente figli del caos generato da tutti i primi attori di questa tragedia, dalle nostre autorità sanitarie, convinte di poter risolvere la crisi a colpi di bonus monopattino, fino ai virologi da salotto TV, ormai divisi per correnti politiche, per cercare di inseguire propri interessi. Il problema però è che tanti prima si limitavano, legittimamente, scrive Mottola, a porre dubbi, ora iniziano a diventare violenti. Alcune di queste persone sono arrivate ad assaltare medici e infermieri. Gli eroi della prima ondata sono finiti in mezzo. Ora li chiamano terroristi e gli sputano addosso, e la cosa potrebbe tranquillamente deflagrare, come prova quanto si è visto questa settimana a Berlino, dove sono stati 700 i feriti a una manifestazione contro le chiusure, peraltro abbastanza blande rispetto alle nostre, decise dalla cancelliera Angela Merkel. Così su Libero. E andiamo ad Avvenire, che ci porta a un tema, diciamo un taglio un po' diverso, ecco, una lettura un po' diversa dell'economia post-pandemica. Intanto l'apertura di Avvenire, che è dedicata alle zone rosse, gialle o arancioni d'Italia. Il titolo è "L'Italia arrossisce e spera nel Natale". Al centro pagina la fotografia che ricorda il 23 novembre di 40 anni fa, il terremoto che cambiò l'Irpinia e il paese, e poi, eccolo qua, troviamo la nuova economia capace di generare. Economy of Francesco. Paradigmi oltre la produzione, scrive Avvenire. E allora il tema è questo: una rivoluzione silenziosa partita da Assisi, sede reale e simbolica dell'evento The Economy of Francesco, voluto dal Papa, che ha come protagonisti 2000 giovani imprenditori ed economisti che parla alle nostre coscienze in un momento storico così complesso. Ed oggi a questo incontro, sia pure ovviamente virtuale, parlerà anche il Papa Francesco. Leggiamo qualche passaggio dell'articolo di Cinzia Arena a pagina 5. Generatività, beni relazionali, economia civile è il titolo del dibattito che ha aperto ieri la seconda giornata di The Economy of Francesco. Oggi ci sarà il videomessaggio del pontefice, un arrivederci all'anno prossimo in autunno, quando si spera si potrà proseguire in presenza il cammino intrapreso in questi tre giorni di dibattiti in streaming. Un concetto, quello della generatività, che i relatori Mauro Magatti, ordinario di sociologia all'Università Cattolica, Consuelo Corradi, professore di sociologia alla LUMS, Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all'Università Tor Vergata, hanno cercato di rendere concreto. Un processo di relazioni che coinvolge tutta la comunità, dai cittadini agli imprenditori, alle istituzioni. Sino ad oggi il circuito della produzione e del consumo hanno regolato il nostro modello economico, ha detto Magatti, ma un'economia basata sulla quantità produce diseguaglianze ed è entropica con la ambiente. Occorre fare un passo più in là, come dice Pascal, conoscere le ragioni del cuore che la ragione non conosce. Produrre e consumare sono alla base della civiltà umana. Il problema nasce quando produzione e consumo pretendono di diventare assolute, di dare senso alle nostre vite. Da qui nasce l'ossessione del controllo. Mi devo fermare qui per questioni di spazio, ma appunto se ne dettaglia di questo incontro di ieri su Avvenire. Avvenire che riporta anche qualche passaggio dell'intervento a questo convegno dell'economista premio Nobel Mohamed Yunus, più volte definito il banchiere dei poveri, fondatore in Bangladesh della Grameen Bank, che eroga microcrediti alle persone indigenti per l'avvio di attività imprenditoriali. Ne scrive Luca Mazza di questo intervento di Yunus. E tra l'altro scrive: per cambiare strada, secondo Yunus, ci sono innanzitutto 3 zero da ricercare: 0 emissioni di carbonio, 0 concentrazioni di ricchezza, 0 disoccupazione. L'invito a ogni singolo è quello di non essere passivo e contribuire al cambio di paradigma. Non basta vedere le ingiustizie e le diseguaglianze nel mondo, occorre passare all'azione, ha detto Yunus. Stesso tema, stesso incontro, lo ritroviamo su Il Fatto Quotidiano. Al Fatto Quotidiano ne scrive Gad Lerner. Ecco due fotogrammi in contemporanea dal nostro pianeta malato. Oggi i capi delle grandi potenze si riuniscono nel G20, patrocinato dall'Arabia Saudita, roccaforte del capitalismo finanziario che fa a meno della democrazia, e intanto si conclude ad Assisi quello che potremmo definire un vero e proprio controvertice mondiale intitolato L'economia di Francesco, cui partecipano 2000 giovani economisti, sindacalisti, imprenditori under 35. A Riyadh, sotto l'egida del dispotico Re Salman, si confrontano i governanti di 20 nazioni, una sola delle quali situata nel continente più povero, il Sudafrica. Ad Assisi invece si esprimono la visione alternativa e le rappresentanze sociali di 120 paesi, in prima fila quelli penalizzati dall'iniqua distribuzione della ricchezza globale. Colpisce, ma non stupisce, il disinteresse manifestato dai media nei confronti dell'appuntamento di Assisi. Lo concluderà stasera Papa Francesco. E vi hanno preso parte alcuni tra i pensatori più autorevoli del nostro tempo, di cui evidentemente dispiace l'avvertimento. Gli squilibri del sistema economico mondiale non reggeranno ancora a lungo lo strapotere del capitalismo finanziario, l'esplosione delle disuguaglianze sociali, il dissennato avvelenamento e surriscaldamento del pianeta. Il titolo dato a questo articolo, a pagina 15 di Gad Lerner, è Assisi è la vera anti-Davos, e per questo nessuno ne parla. Il Fatto Quotidiano. Abbiamo adesso le informazioni sulla viabilità e torniamo tra un istante. In primo piano. Dunque, stavamo dicendo di visioni alternative di futuro, l'abbiamo fatto con l'incontro di Assisi, dove parlerà oggi Papa Francesco. Andiamo ora sulle pagine del manifesto, il cui titolo d'apertura è Conciati per le feste, e ovviamente si parla di Natale e di indici di contagio, ma nelle pagine interne Andrea Capocci ci presenta una intervista all'epidemiologo ordinario all'Imperial College, vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, Paolo Vineis. Curare con la politica, questo è il titolo. E qualche passaggio, anche secondo il direttore di Lancet, Richard Horton, la famosa rivista scientifica, il Covid-19 e le altre patologie e le condizioni ambientali, socio-economiche si aggravano a vicenda. Invece di pandemia dovremmo parlare di sindemia. La convince, allora, sindemia è un insieme di problemi di salute ambientali, sociali, economici, insomma. E la risposta di Vineis è: nel Consiglio Superiore di Sanità ho coordinato la redazione di un documento di commento al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e sulle malattie croniche non trasmissibili. Adottavamo proprio il punto di vista della sindemia. Mirko Grmek, forse il maggior storico della medicina del secolo scorso, parlava di patogenesi e sosteneva che le malattie in un certo momento storico, anche quelle infettive, vanno viste nel loro insieme. La trasmissione delle malattie si può studiare con una lente più complessa di quella ancora dominante nel mondo medico, che cerca l'origine delle patologie principalmente in alterazioni molecolari. Noi guardiamo invece alle cause sociali, storiche, produttive, inclusa la globalizzazione. Sono due visioni della malattia e della prevenzione non contrapposte ma complementari, prosegue Vineis. Da un lato la cosiddetta medicina di precisione punta a curare a partire dalle caratteristiche individuali, in particolare quelle genetiche, dall'altro c'è la medicina di comunità. L'enfasi sulla responsabilità personale, seppure giusta, non è sufficiente. La prevenzione delle malattie, basata sulla promozione della salute attraverso il miglioramento degli stili di vita individuali, ha funzionato limitatamente perché l'educazione sanitaria trova ascolto soprattutto nelle classi più agiate. È una lezione dell'economista indiano e premio Nobel Amartya Sen. Non sempre gli individui sono liberi di scegliere, e questo è uno dei nodi di fondo della salute di comunità. Beh, l'articolo è lungo, prosegue, vi ricordo, pagina 5 del manifesto, Andrea Capocci. Sul Corriere della Sera, l'epidemia rallenta, il titolo di apertura, RT in calo, Brusaferro dice la curva si appiattisce, Speranza, il ministro, non si canti vittoria. Poi al centro pagina la fotografia delle persone in fila a Bolzano per il test di massa. A Bolzano e in tutti i comuni dell'Alto Adige, infatti, migliaia di cittadini si sono sottoposti al tampone rapido. L'obiettivo è raggiungere il 70% della popolazione, così spezziamo la catena. Sicuramente un'iniziativa lodevole, questo è il mio punto di vista, chiaramente non espresso dal Corriere della Sera. Le imprese rimaste senza voce, di Francesco Giavazzi, la crescita, i privati. E poi sul Corriere della Sera vediamo gli affanni e la morte nelle corsie del Covid. Paolo Giordano, da scrittore diventa cronista a Torino, e descrive appunto una sua visita all'ospedale Maria Vittoria, dove non si vedono code esternamente, non ho visto letti appiccicati né infermieri correre frenetici per i corridoi. All'ospedale si accede senza ostacoli, lo spazio aperto tra i padiglioni ha lo stesso aspetto che ricordavo, scrive Giordano, con le sole aggiunte di un tendone militare del personale in tuta bianca. Ah certo, il cortile è tranquillissimo, ha commentato Luca quando gli ho segnalato quello che avevo visto. Luca è un anestesista che tra la prima e la seconda ondata si è fatto anche la malattia, come un'altra settantina di operatori. Siamo al terzo piano, finestre spalancate, sui pavimenti chiazze umide di candeggina. Qui c'erano le sale operatorie, ma sono state convertite in stanze di terapia intensiva, tutte tranne una per le urgenze. È stato montato un sistema di telecamera a circuito chiuso e dal monitor vedo pazienti Covid più gravi, sedati, intubati, molti tracheotomizzati. Dietro la percezione comune a noi da fuori che gli ospedali siano al 30, al 50 o vicini alla saturazione, c'è la verità molto più semplice, che qui i letti sono sempre tutti occupati, lo sono in regime di normalità e figuriamoci ora. Lunghissima la descrizione di quello che vede Paolo Giordano appunto a Torino. Ed è appunto la messa in pratica, in evidenza di chi giudica dal di fuori quello che c'è dentro, che è totalmente diverso ovviamente. L'ordine fuori non corrisponde alla tranquillità interna degli ospedali. La Stampa, 10 miliardi per i ristori, stop alle tasse di fine anno, intervista Meloni, Berlusconi in maggioranza cercano solo di spaccarci. Così riassume La Stampa l'intervista a Giorgia Meloni, che poi trovate nelle pagine interne, pagine 2 e 3, queste sono quelle dedicate a questo tema. Sempre dalla prima della Stampa, Natale in giallo, pronte misure soft anche in Piemonte e in Lombardia, e poi la repressione in Egitto, arrestati i leader della ONG di Zaki, Conte in pressing su Al-Sisi per Regeni. Questo tema occupa tutta la prima di Repubblica, abbiamo le prove, processo agli 007 egiziani, così il titolo. La verità sulla morte di Giulio Regeni è a un bivio cruciale, quasi 5 anni dopo quel 25 del gennaio del 2016, quando Giulio scomparve nel nulla al Cairo in Egitto. La Procura di Roma ha infatti chiuso le indagini sull'omicidio, entro il 4 dicembre notificherà l'avviso di conclusione delle indagini ai 5 agenti del servizio segreto civile egiziano accusati del sequestro di Giulio. Ne scrive poi abbondantemente Carlo Bonini nelle pagine di Repubblica. E poi, sempre dalla prima, vi segnalo Recovery, lite tra i ministri. Il tempo a nostra disposizione sta finendo, così per gli appassionati sia di calcio che di racconti Covid, sul Messaggero oggi Totti racconta: sono guarito, ho passato i momenti più brutti della mia vita. Ci dobbiamo fermare qui, c'è GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.